Siamo concesso solo una vita, soddisfatti o no, qua non rimborsano mai. E calendari a chiederci se stiamo prendendo abbastanza, abbastanza. Se per ogni sbaglio avessi 1000 lire, che vecchiaia che passerei. Strade troppo strette, diritte per chi vuol cambiare rotta, oppure sdraiarsi un po', che andare va bene, però a volte serve un motivo, un motivo. Certi giorni ci chiediamo sempre sì, non è tempo per noi che non ci svegliamo mai, abbiamo sogni però troppo grandi e belli, sai, belli o brutti, abbiamo facce che però non cambia mai. Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Già buono per amare qualchedun altro, qualche altro. Dicono che noi ci stiamo buttando via, ma siamo bravi a raccoglierci. Non è tempo per noi che non ci adeguiamo mai, fuori moda, fuori posto, insomma sempre fuori, dai, abbiamo donne pazienti, rassegnate ai nostri guai. Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Non è tempo per noi che non vestiamo come voi, non ridiamo, non piangiamo, non amiamo come voi. Troppo ingenui o testardi, poco furbi casomai. Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Non è tempo per noi e non ci svegliamo mai. Abbiamo sogni però troppo grandi e belli, sai, belli o brutti abbiamo fatto.